Il cacciatore di libri. Passione italiana. Ben ritrovati da Alessandra Tedesco ad una puntata specialissima del Cacciatore di Libri, un po' perché è Natale, un po' perché l'avete sentito dalla nostra sigla. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata di circa mezz'ora esclusivamente agli scrittori italiani. Noi italiani spesso siamo esterofili nelle nostre scelte, anche per quanto riguarda l'editoria, ci piacciono gli scrittori stranieri, eppure in Italia abbiamo tantissimi bravi scrittori degni di nota. Allora abbiamo deciso così per questo Natale del 2009 di dedicare appunto uno speciale agli scrittori italiani, ad iniziare da uno degli scrittori italiani più popolari e più amati, Erri De Luca. Il suo ultimo racconto, perché non è un romanzo, è un racconto di circa 70 pagine, si intitola Il peso della farfalla ed è stato pubblicato da Feltrinelli, un libro che sta avendo un grandissimo successo ed è infatti ai vertici delle classifiche di vendita, sia di quelle solo italiane sia di quelle che mettono insieme appunto vendite italiane e straniere. È veramente un bel racconto nel quale si parla di montagna, ma anche e soprattutto di due personaggi. Ognuno a suo modo, diciamo, è un re nel proprio mondo. Da una parte c'è un camoscio e dall'altra c'è un cacciatore. Allora ecco come Erri De Luca ci descrive i suoi personaggi. Sentiamolo. Sono sì un cacciatore, ma solitario, non di quelli che fanno battute di caccia in compagnia, e che si trova intorno ai suoi 60 anni con un sentimento di essere alle ultime stagioni della sua esperienza, della sua vita all'aria aperta. È un camoscio che è stato un capo branco, ma i camosci sono abbastanza solitari, fanno vita abbastanza solitaria per la gran parte dell'anno. È stato un capo branco ed è anche lui all'ultima stagione di supremazia nel suo ambiente. Intorno c'è una natura di montagna in cui l'essere umano è insignificante dal punto di vista proprio numerico, è scarso. Io, a me piace andare in montagna, scalare, praticare alpinismo, perché là riesco a vedere il mondo così come era senza di noi. Infatti potremmo dire che forse la terza protagonista di questo racconto è la montagna. Leggendolo, se non avessi saputo che l'aveva scritto lei, avrei pensato, non so, magari a un racconto di Mauro Corona, che è lo scrittore montanaro per eccellenza. Lei, che è napoletano doc, che spesso mette Napoli nei suoi scritti, ha però questa grande passione per la montagna. Sì, vengo da Napoli, ma mi sono estratto da lì e ho fatto altre... Non ho vissuto più lì dopo i 18 anni e ho incontrato abbastanza tardi la montagna, anche se mi era stata inculcata da bambino, perché mio padre è stato soldato nella fanteria alpina durante la guerra e ha avuto sempre un amore speciale per la montagna. E allora la montagna è stato il mio ambiente preferito, è quello dove vado tutte le volte che posso, insomma, nel quale mi procuro una passeggiata, una mia piccola passeggiata in un deserto senza di noi. Perché questo titolo, Il peso della farfalla? Il peso della farfalla, perché il peso della farfalla è insignificante, ma il momento in cui si posa da qualche parte, la farfalla smette di battere le ali e quella interruzione del battito di ali della farfalla somiglia all'interruzione del battito di un cuore. Ecco, io penso che un cuore che si ferma senta su di sé il peso della farfalla. In questo c'è qualcosa di autobiografico? Ho prestato a questo cacciatore una mia esperienza cardiaca, sì, ho avuto degli infarti tutti insieme qualche anno fa. E non che allora pensassi che quello era come il peso della farfalla, mi è venuto in mente dopo. E succede che solo dopo vedi davvero quello che hai visto. In genere i cacciatori non sono una figura politically correct, così per usare un termine molto, molto in uso. Questo, che è poi il protagonista del suo racconto, è però un cacciatore che ha delle regole ben precise. Per esempio quella di non sparare mai agli stambecchi. Sì, non spara agli stambecchi, non bisogna sparare alle femmine, bisogna abbattere la bestia con un colpo solo. Insomma, c'ha delle regole di comportamento che erano regole abbastanza diffuse nell'ambiente quando si andava a cacciare per procurarsi quel cibo in più, quella proteina in più che mancava alla vita. Quindi sì, il cacciatore era, è stata una figura nobile della nostra specie vivente. Faceva parte del procurarsi il necessario. Oggi è un hobby che distrugge vite senza nessun tornaconto, è semplicemente lo sfizio di abbattere. Perché il cacciatore del racconto non spara gli stambecchi? C'è una storia specifica che lei racconta? C'è una storia, sì, che questa ho ricevuto, non l'ho inventata. In un giorno di nebbia il cacciatore spara a uno stambecco senza accorgersi nella nebbia che è femmina e che è il cucciolo vicino. E allora assiste a questa scena, la femmina che cerca di rimanere comunque aggrappata al pendio su cui sta, ma non ci riesce e cade. E il piccolo, senza nemmeno guardare dove, perché non si vede niente, si butta dietro la madre. Quando lui raggiunge la madre, c'è lì vicino il piccolo che lo guarda, un po' malfermo sulle gambe, tremante. E quel giorno quel cacciatore, quello che mi ha raccontato questa esperienza, ha deciso che non avrebbe più tirato a uno stambecco. E questo era Henry De Luca, ora in libreria con Il peso della farfalla, pubblicato da Feltrinelli. Altro scrittore culto, altro scrittore amatissimo, con un libro in testa alle classifiche, Che la festa cominci, è l'ultima fatica di Niccolò Ammanniti, pubblicata da Einaudi. L'autore di successi come Io non ho paura, Ti prendo e ti porto via, ci fornisce stavolta la metafora di una società malata. Il romanzo è ambientato a Roma, tutto gira intorno ad una festa organizzata da un palazzinaro che è riuscito ad acquistare addirittura Villada, che è poi uno dei parchi più noti della capitale, dove finisce per organizzare una festa spettacolare nella quale ci sono per esempio animali esotici, gru, ippopotami, elefanti indiani, tigri, albine, insomma ce n'è veramente di tutti i gusti, potremmo dire così. A questa festa partecipa anche un noto scrittore e poi le cosiddette belve di Abaddon, una setta satanica in declino, un po' sgangherata, insomma personaggi grotteschi e tragici che portano a sorridere, ma ahimè in modo amaro. E allora sentiamo l'incipit di Che la festa cominci. A un tavolo della pizzeria Jerry 2 di Oriolo Romano erano riunite le belve di Abaddon. Il loro leader Saverio Moneta, detto Mantos, era preoccupato. La situazione era grave. Se non riusciva a riprendere in mano il comando della setta, quello rischiava di essere l'ultimo raduno delle belve. L'emorragia era cominciata da un po'. Per primo se n'era andato Paolino Scialdone, detto il falciatore. Senza dire una parola li aveva mollati ed era entrato nei Figli dell'Apocalisse, un gruppo satanista di Pavia. Poche settimane dopo, Antonello Agnese, detto Molten, si era comprato un Harley Davidson di seconda mano e si era unito agli Hells Angels di Subiaco. E per finire Pietro Fauci, detto Nosferatu, braccio destro di Mantos e storico fondatore delle belve, si era sposato e aveva aperto un negozio di termoidraulica alla Betone. Erano rimasti in quattro. Bisognava fare un discorso molto serio, rimetterli in riga e reclutare nuovi adepti. E questo era un brano tratto da Che la festa cominci di Niccolò Ammanniti, pubblicato da Einaudi. Veniamo ora ad una favola per grandi e per piccoli. Si intitola Il grande albero, pubblicato da Salani, e il ritorno alla scrittura per ragazzi da parte di Susanna Tamaro, una delle scrittrici italiane più note al mondo. La sua fama è legata al bestseller Va dove ti porta il cuore, che ha venduto 14 milioni di copie in tutto il mondo, 8 delle quali in Italia. L'incubazione di questa favola, Il grande albero, è durata circa 10 anni ed è la stessa Tamaro a spiegarci perché ha deciso di raccontare proprio questa storia. Sentiamola. Questa storia è perché è una storia che parla della natura, del nostro legame con la natura, che è qualcosa che ritengo molto importante in questi tempi che vanno esattamente in direzione opposta, no? Perché la natura fa parte di noi, noi siamo natura, tutta l'evoluzione dentro di noi, dunque noi ci capiamo meglio se capiamo la natura, se sappiamo vederla, se sappiamo emozionarci davanti a lei. Se questo non succede, perdiamo una grande parte di noi. Dunque l'intento, insomma, di base di questa idea creativa era questa. Infatti il protagonista di questa storia è un albero che, insomma, subisce diverse peripezie. Ci può raccontare brevemente un po' che cosa gli accade? Sì, un albero che nasce, un abete innanzitutto, che nasce sulle montagne dell'Austria, e nasce nel 700, perché un abete vive 500-600 anni se non ha disturbato, e dunque vede la storia dell'uomo, la storia dell'Europa scorrere intorno a sé, e finché un bel giorno, nei tempi, insomma, attuali, arriva una motosega, come arriva per tutti gli alberi a un certo punto, e lo taglia. Lui è convinto di finire a fare appunto qualcosa di falegnameria o al, nel migliore dei casi il pennone di un velliero, e invece si ritrova a fare suo malgrado l'albero di Natale a Piazza San Pietro. In Piazza San Pietro l'albero finisce per incontrare il Papa. Il Papa viene visto un po' come colui che potrebbe salvarlo da un brutto destino. C'è una scena in cui il Papa, per esempio, parla con uno scoiattolo addirittura. Lei spesso viene definita una scrittrice cattolica per eccellenza. Cosa che rifiuto totalmente. Ecco, questa definizione le dà fastidio? Estremamente, perché non c'entra niente con i miei libri, col mio mondo. È solo un bisogno delle persone che hanno paura delle persone libere, delle persone che hanno un modo di pensare, diciamo, singolare, che hanno bisogno di etichettare, di chiudere in un cassetto per non essere disturbate. Io non sono una scrittrice cattolica, punto. Però la religione in questo caso, sì, c'è la figura del Papa che rientra. Beh, era inevitabile, perché essendo l'albero di Piazza San Pietro, diciamo, il padrone di casa è il Papa di Piazza San Pietro, no? Dunque era un incontro piuttosto inevitabile, e anche perché il Papa, in questo caso il riferimento è abbastanza chiaro a Wojtyla nel libro, il Papa è rimasto nell'immaginario l'ultimo grande vecchio di questo mondo, no? L'ultimo vecchio sapiente, dunque è un po' anche mago Merlino delle fiabe, no? In questo caso. Spesso le favole sono scritte per bambini e ragazzi, però hanno poi possono essere lette anche dagli adulti. C'è un significato metaforico in questa favola? Sì, sì, questa è una fiaba principalmente per adulti, io penso, cioè è per entrambi, ma gli adulti possono cogliere il senso profondo, perché è una fiaba che ha dei livelli, delle stratificazioni tra i miei libri, per cui uno, a seconda del suo livello, capisce il livello più profondo. Questa fiaba parla della nostra necessità di avere radici nella vita, perché solo con le radici si può crescere stabilmente verso l'alto, e crescere verso l'alto è l'attitudine naturale dell'uomo, perché solo noi e le piante abbiamo questa natura di crescere, di andare dalla terra verso il cielo. Dunque noi troviamo la nostra realizzazione quando capiamo che siamo delle creature verticali, e dunque dobbiamo stabilizzarci nella terra e sapere che siamo spinti verso il cielo, no? Per gli animali, ad esempio, a quattro zampe gli animali, nessun animale è verticale. Da Susanna Tamaro ad un'altra grande scrittrice italiana, Dacia Maraini, è uscito da poco in libreria il suo ultimo libro, La ragazza di via Macheda, pubblicato da Rizzoli. È una raccolta di racconti con forti connotazioni autobiografiche. Dal punto di vista geografico c'è quindi un po' di Sicilia, ma c'è anche la Roma della gioventù e infine l'Abruzzo, dove la scrittrice si rifugia per scrivere. Sono racconti scritti in periodi diversi della vita della scrittrice, che ci forniscono dunque lo specchio del percorso sia di vita personale che della carriera letteraria di Dacia Maraini. E allora sentiamo l'incipit del primo racconto. Sta in piedi appoggiata contro un muro, tenendo una gamba ritta e l'altra piegata, come una gru. Ha i capelli ricci, nerissimi, che le incorniciano la faccia tonda e infantile. Porta scarpe dalle zeppe di sughero e lacci che salgono lungo i polpacci magrissimi. Ha la pelle scura, di un profondo colore notturno. Si direbbe una bambina di 10 anni, anche se si guarda intorno con fare adulto e spavaldo. Come se avesse paura, ma nello stesso tempo sfidasse la propria paura con modi sicuri, fumando una sigaretta dietro l'altra. Per terra, intorno a lei, tante cicche e qualche pacchetto vuoto, sgualcito e pestato. E questo era un brano tratto da La ragazza di via Macheda di Dacia Maraini, pubblicato da Rizzoli. Lui si definisce un non scrittore, infatti oltre a sfornare libri fa il conduttore radiofonico, il presentatore televisivo, l'attore, insomma uno showman. Tra l'altro in passato, ormai lo sanno tutti, ha fatto anche il panettiere. Stiamo parlando naturalmente di Fabio Volo. Anche l'ultimo romanzo, Il tempo che vorrei, ha scalato subito le classifiche, scalzando dalla prima posizione niente poco di meno che Il simbolo perduto di Dan Brown, pubblicato sempre da Mondadori, quindi diciamo che è stata una lotta intestina fra Fabio Volo e Dan Brown. Il libro, uscito il 24 novembre, in 3 settimane ha venduto circa 300.000 copie. Insomma, c'è da scommettere anche che, appunto, in vista del Natale le vendite si saranno sicuramente impennate. Dunque, citando quanto scritto tempo fa da Edmondo Berselli sul quotidiano La Repubblica, Fabio Volo piace, almeno secondo Berselli, perché crea nel lettore la sensazione di poter dire questa cosa qui l'avrei potuta scrivere io. Insomma, il segreto del successo di Fabio Volo starebbe nella semplicità del racconto e nel fatto che descrive e parla di storie di gente normale. Il protagonista di Il tempo che vorrei è Lorenzo, un uomo alle prese con due amori da ricostruire, due storie parallele raccontate a capitoli alternati. Da una parte Lorenzo cerca di ricreare un rapporto con il padre, dall'altra c'è il tentativo di recuperare la relazione con l'ex fidanzata che lo ha mollato perché lui non voleva avere figli e quindi non voleva formare una famiglia. Ecco allora l'incipit di Il tempo che vorrei. Sono nato in una famiglia povera. Se dovessi riassumere in poche parole cosa significhi per me essere povero, direi che è come vivere in un corpo senza braccia davanti a una tavola apparecchiata. Non conosco la povertà che si vede spesso in televisione, quella di gente che muore di fame e non ha nulla. Io conosco la povertà di chi possiede qualcosa, di chi ha da mangiare anche un tetto, un televisore, una macchina. La povertà di chi può fingere di non esserlo. È una povertà piena di oggetti, ma anche di scadenze. In questo tipo di povertà sei fortunato e sfortunato allo stesso tempo. C'è chi sta meglio di te e chi sta peggio. Però è comunque vergogna, è colpa, è continua castrazione. E poi ansia, precarietà del tutto, e rabbia repressa e abbassare sempre la testa. Non sei così povero da non avere abiti addosso, ma i vestiti che indossi spesso ti mettono a nudo e rivelano il tuo segreto. Basta un rammendo a dire chi sei. Da Fabio Volo ad un altro scrittore molto amato dai giovani, anzi dai giovanissimi direi, parliamo di Federico Moccia. È in libreria con Scusa ma ti voglio sposare, pubblicato da Rizzoli, e il seguito di Scusa ma ti chiamo amore. Questa volta Alex e Niki, la fidanzata di 20 anni più giovani, sono alle prese con il matrimonio, come ci racconta lo stesso Moccia. Mi piaceva dare un seguito dove una bellissima storia iniziata per caso con un incidente avesse poi la preoccupazione dell'arrivare alla proposta non indecente ma appunto di una bellissima sorpresa che Alex fa per averla in sposa, perché secondo me poi è importante in un rapporto superare e decidere veramente di costruire qualcosa di concreto insieme. Naturalmente giusto anche le paure di Niki in questo romanzo rispetto a quelle che sono le aspettative nei confronti del matrimonio, sia come sacramento che con tutto quella che è la preparazione. Il nome di Federico Moccia è ormai legato al tipo di romanzo un po' giovanilistico, diciamo così. I protagonisti sono sempre dei ragazzi, anche se in questo caso c'è anche un uomo più adulto. Non ti sei un po' stancato di raccontare sempre storie di ragazzi? Hai voglia di raccontare anche qualcosa di diverso? Ma in Scusa ma ti voglio sposare, in realtà io ho raccontato poi tutta un gruppo di amici, soprattutto quelli di Alex, che sono tutti più grandi, quindi hanno tutti 40 anni, tutti sposati, tutti con figli, tutti con le difficoltà del matrimonio, tutti che più o meno si separano, tornano insieme o comunque quello che succede nella vita di tutti i giorni. In questo caso diciamo che la parte più giovane c'è con Niki e le sue amiche, però è un romanzo che si bilancia al 50% tra giovani e non giovani. Poi secondo me oggi parlare di romanzo giovanilista rispetto a quanto la nostra società vede addirittura degli settantenni importanti, giovanissimi, quindi io credo che non si possa dare un connotato d'età a nessuno. E questo era Federico Moccia, autore di Scusa ma ti voglio sposare, pubblicato da Rizzoli. E parla di ragazzi, anche se in modo completamente diverso, anche l'ultimo romanzo di Alessandro Baricco, Emmaus, pubblicato da Feltrinelli. Un romanzo breve, sono circa 139-140 pagine, nel quale Baricco ci racconta le vicende di un gruppo di adolescenti a Torino. Ragazzi della piccola borghesia, apparentemente fondati su valori solidi, saldi, fanno per esempio volontariato, ma che guardano da lontano il gruppo dei ricchi. Prima fra tutti l'affascinante ragazza Andre. Un linguaggio ricercato come tipico di Baricco per un romanzo bello. Unica notazione, in un paio di punti si perde un po' eccessivamente, diciamo così, nelle disquisizioni sul rapporto che questi ragazzi hanno con la religione. Ma insomma, nel complesso è un romanzo bello, interessante. Allora sentite l'incipit. Abbiamo tutti 16-17 anni, ma senza saperlo veramente, è l'unica età che possiamo immaginare. A stento sappiamo il passato. Siamo molto normali. Non è previsto un altro piano che essere normali. È un'inclinazione che abbiamo ereditato nel sangue. Per generazioni le nostre famiglie hanno lavorato a limare la vita fino a toglierle ogni evidenza. Qualsiasi asperità che potesse segnalarci all'occhio lontano. Col tempo hanno finito per avere una certa competenza nel ramo. Maestri di invisibilità. La mano sicura, l'occhio sapiente. Artigiani. È un mondo in cui si spegne la luce uscendo dalle stanze, le poltrone sono coperte dal cellophane in sala. Gli ascensori hanno talvolta un meccanismo per cui solo introducendo una monetina, si accede al privilegio della salita assistita. L'uso in discesa è gratuito, sebbene in genere ritenuto inessenziale. Nel frigorifero si conservano i bianchi d'uovo in un bicchiere e al ristorante si va di rado, sempre la domenica. Sui balconi, tende verdi proteggono dalla polvere dei viali piantine coriacee e mute, che non promettono niente. La luce spesso è ritenuta un disturbo. Grati alla nebbia, per quanto assurdo possa parere, si vive, se quello è vivere. Tuttavia siamo felici, o quantomeno crediamo di esserlo. E questo era un brano tratto da Emmaus, l'ultimo romanzo di Alessandro Baricco. Altro scrittore molto amato dal pubblico, Andrea Vitali, è da poco uscito il suo ultimo libro, Pianoforte Vendesi, pubblicato da Garzanti, anche in questo caso un libro breve, solo 88 pagine, potremmo dire, insomma, un romanzo breve, un racconto lungo, vedete un po' voi. Andrea Vitali, che ha firmato successi come Almeno il cappello, La modista, Olive comprese, Il segreto di Ortelia, ci porta ancora una volta nella sua Bellano, il paesino ormai notissimo grazie ai suoi romanzi, sul lago di Como. Uno scrittore, dicevamo, Andrea Vitali, molto amato dal pubblico. Ma perché i suoi libri piacciono così tanto? Beh, noi l'abbiamo chiesto allo stesso Andrea Vitali. Nella maggior parte dei casi, diciamo, la critica positiva che mi viene fatta più spesso è quella di aver saputo ricostruire un certo micromondo che oggi si è un po' perduto, insomma, per una serie di ragioni grosse e meno grosse. Però ecco, l'apprezzamento che vedo, cioè la cosa che viene più apprezzata è proprio questo ricostruire un mondo piccolo, un mondo proprio di provincia, peraltro non chiuso in se stesso, appunto una provincia riproducibile ovunque, che è un po' poi quello che succede con i grandi maestri della narrativa italiana, dalla provincia, non so, di Camilleri, una provincia riproducibile ovunque, così come tanti altri scrittori anche del passato che hanno ambientato le loro storie lì, riuscendo però a esportarle, cioè a raccontarle al di fuori dei confini del loro luogo. Ha paura di rimanere prigioniero di Bellano come scrittore, intendo, insomma, almeno con la fantasia non avrebbe voglia, la tentazione di andare fuori? Ma guarda, io sono già prigioniero di Bellano come uomo e quindi non mi spaventa l'idea di restare incatenato a quel posto, a quel luogo che peraltro è ricchissimo di storie, perché se un tempo il mio timore era quello di giungere all'esaurimento di queste storie, il mio timore attuale è quello di non avere più tempo per raccontare le storie che nel frattempo ho scoperto, per cui si tratterà di una prigionia, ma sicuramente una prigionia dorata. Spesso quando si parla di Andrea Vitali, subito il paragone con Piero Chiara, è un paragone che, insomma, l'ha scocciata, la stanca o le fa piacere? No, né mi ha mai scocciato né mi ha mai stancato, e semmai mi ha fatto piacere, perché Piero Chiara è insieme a molti altri uno scrittore che mi ha insegnato, leggendo i suoi libri, come si racconta bene una storia, uno scrittore che mi ha fatto compagnia con la lettura dei suoi romanzi. Io considero ad esempio La stanza del Vescovo un capolavoro della narrativa italiana, ed è il libro ad esempio che ho più spesso letto e riletto, soprattutto proprio per farmi una scuola di scrittura creativa domestica. E questo era Andrea Vitali, ora in libreria con Pianoforte Vendesi, pubblicato da Garzanti. Ed è tutto per questo speciale del Cacciatore dei Libri dedicato agli scrittori italiani. L'abbiamo chiamato Passione Italiana. Non mi resta a questo punto che augurarvi un buon Natale e un sereno anno nuovo. Un saluto da Alessandra Tedesco.